Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, un affettuoso saluto da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua, Antonio. Ancora una volta. Ecco, vediamo di cambiare un po' la musica stasera. Cosa dici tu? Benissimo. Facciamo ascoltare, sì, sì, anziché canzoni, brani strumentali. Ecco, e anche molto belli. Così spero che anche la nostra ospite sarà contenta. Bene, allora diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo anche la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione. Senza dimenticare un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. E anche al coordinatore, benissimo. Allora, Antonio, stasera abbiamo un ospite virtuale. Che è? Di provenienza naturalmente dalla nobile città di Bassano del Grappa, la signora Elide Bellotti Imperatori. Però non sappiamo ancora di che cosa ci parlerà. Sarà una sorpresa piacevole come le altre, direi. Ecco, allora andiamo subito col primo brano. Cosa dici, Antonio? Sì, il primo brano questa volta, andando sullo strumentale, abbiamo pensato di riesumare, diciamo, il grande Glenn Miller e la sua big band in Moonlight Serenade, serenata al chiaro di luna. Bene, siamo ritornati in studio e come avevamo annunciato prima avremo al telefono la signora Elide Bellotti Imperatori. Buonasera signora. Buonasera, buonasera signora, buonasera. Bentornata da noi. Grazie. Ecco. Allora cari amici, ben ritrovati a tutti. Dicevo, pensavo poco fa che ci siamo lasciati poco prima del Santo Natale 2013, sì, con l'augurio sentito di pace e serenità di ogni cuore, con il sentimento di amore da ricercare prima di tutto tra i nostri cari e rivolti poi a quanti accanto a noi, fuori dalle nostre porte, fanno parte del nostro quotidiano. Ci siamo lasciati, se ricordate, in un vivo mercato a Bassano nel 1500, ricco di movimento, di voci, di proposte, ravvivato dal passare di un popolo generoso, simpatico, vivo e anche di nobili, ma soprattutto della presenza del grande pittore Jacopo, che da quel movimento trasse spesso ispirazione per i suoi quadri. Quindi un momento molto particolare vissuto dalla nostra piccola città, che spero continui ad interessarvi, così come mi sembra sia accaduto attraverso le nostre, la mia trasmissione. Senz'altro. Grazie. Ecco, parliamo anche, mi sembra di ricordare, di cucina, di un pranzo di Natale fatto invece negli anni, nei primi anni del Novecento, così quando la nostra realtà era ancora una realtà contadina, una realtà molto povera. Una realtà che vedeva grandi ville e delle persone però molto umili che facevano parte di quei diciamo contratti, chiamiamoli così, un po' malvagi di mezzadria, per cui tutto era dovuto in massima parte al padrone della terra, perché il mezzadro doveva solo accontentarsi di vivere con la sua famiglia del lavoro delle sue braccia. Ecco, quindi abbiamo vissuto dei momenti molto particolari, come dicevamo, quando un pranzo di Natale per la povera gente era un pranzo di Natale. Ringraziando di Dio, cose ormai superate da tempo. Mangiamo bene ogni giorno. Sì, la nostra civiltà contadina è anche ormai tecnologica ed industriale, pur tra diciamo le ultime traversie che non sono certo da poco. Ecco, questa sera invece vorrei con un grande balzo condurvi due secoli dopo nella vita di questa nostra piccola città ed entrare con voi nel Settecento. Voglio perciò condurvi tra gente colta ed illustre in uno dei salotti cittadini motivati da un movimento letterario molto importante nel tempo, quello dell'Arcadia, che era stato fondato a Roma da poeti del circolo della regina Cristina di Svezia. Nella nostra città la contessa Francesca Roberti Franco, conosciuta in Italia e dall'estero con lo pseudonimo di Egle Euganea, perché tutti coloro che partecipavano o erano importanti nella vita di questo movimento letterario avevano uno pseudonimo che poi veniva appunto trasmesso a tutti coloro che dovevano conoscere la città dalla quale partiva il movimento letterario. Quindi la Egle Euganea, che è questa donna intelligente, vivace, che è nata nella famiglia Roberti ed è sposata con il conte Franco, raccoglie intorno a sé tra il 1778 e il 1787 poeti, musicisti, coreografi. Quindi ospiti famosi quali Vittorelli, Pindemonte, Boscovic, Cesarotti, Pagani, Cesa, Giovio, Caser e Dal Pozzo dissertano con questa donna di letteratura classica, di poesia, di musica e danze, ma anche di politica ed economia, di problemi sociali, nati e riscoperti e scoperti soprattutto allo stimolo di idee illuministiche. Il tutto avviene nella cornice di palazzi quale lo Sturm, oggi spazio museale, e il Roberti, che è oggi una libreria di altissimo livello, e sono ambiti che onorano grandemente la nostra città. Ecco, provate ad immaginare un salotto di questo tipo. Ah, ma io, ecco. Io sono innamorata del Settecento, dell'Ottocento. Ecco, ecco, anche a me sono, soprattutto approfondendo questi temi, nel, per esempio, nella ballata del millennio abbiamo fatto rivivere questo momento proprio a Palazzo Sturm, che coloro che conoscono Bassano sanno che ha la grande terrazza che si affaccia sul Brenta, quindi in vista del ponte, in vista delle colline, ecco, in vista di tutto ciò che fa bello questo spazio. Ecco, e quindi queste signore che arrivano con questi belli abiti, questi nomi così importanti, accolti da questa donna in abito bianco, con, addirittura con un piccolo cappellino sulla testa. Uomini e donne però non portano parrucche. Sta per finire un'epoca molto importante sotto questo punto di vista, per la moda, per tutte queste cose che noi ricordiamo ancora, ah, sì, attraverso libri, attraverso dipinti, attraverso cose importanti. Perché? Perché qui ci troviamo ai margini di grandi città, come può essere Venezia, come può essere Padova, allora. Ecco, e quindi già la moda è meno rigorosa, diciamo, quindi le pettinature sono più semplici sia per gli uomini che per le donne. Ecco, la piacevolezza della cosa è data da questo parlare di poesia, da il piccolo balletto che quasi sempre c'è in queste riunioni, perché si dava molto valore al senso del sole, della luna, degli eventi che facevano la vita del mondo, trascorrere delle stagioni, e quindi tutto ciò che era bello ed armonioso veniva riportato nei salotti d'Arcadia. Ecco, quindi io trovo che far rivivere, pensare anche a queste cose sia molto importante, perché la cultura è passata negli anni attraverso queste cose, in modo molto vivo, molto importante, quindi anche diciamo le pomposità del Seicento, i barocchismi così, si sono poi via via diluiti invece in cose nuove, in filosofie, in alti ragionamenti politici. D'altra parte noi sappiamo che la Francia motivava molto queste cose, e quindi tutte le persone, diciamo, ad un certo livello culturale, erano anche affascinate dalla ricerca e dalla discussione su temi molto importanti. D'altra parte, senza passato non c'è presente. Senza passato non ci sarebbe presente. Quindi poter considerare una piccola città come la nostra anche uno spazio culturale ad alto livello, come fu quello dell'Arcadia in Brenta, io credo che sia una cosa che dà una certa soddisfazione, certo, a tutti noi. Ecco, e che non può essere naturalmente dimenticato pensando e rivedendo la storia di questa città. Infatti Antonio dice sempre che il passato deve essere ricordato, vero Antonio? Assolutamente, soprattutto quando è un passato nobile, certo, nobile, certo, intendo dal punto di vista intellettuale, come certo, questo. Mi viene in mente di fare il paragone con la situazione odierna, e naturalmente lascio agli altri pensare. Non facciamo commenti inopportuni. Ecco, questo non può darci che tristezza, esatto. Però... se noi andiamo anche a ricercare un po' indietro, vediamo che il mondo gira, ha sempre avuto dei momenti di alto e basso, insomma. Ma i corsi e i ricorsi della storia, certo, esistono, certo, così come esiste ancora il discorso della Bibbia, se andiamo ben a guardare, no? Sì. Le famose sette vacche grasse, vacche magre, non possono che farci pensare veramente a come le cose si ripetano nel quotidiano degli uomini. Ecco, sono come delle cadenze abbastanza precise. Comunque, cerchiamo di essere fiduciosi, ecco, io lo dico sempre. Speriamo, sì, dai, perché qua... È vero? Certo. E continuiamo a ripeterlo. Allora, rallegriamoci un po' con la bella musica di Glenn Miller. Adesso le faccio ascoltare la marcia di Radeschi. Ah, bellissimo, ecco. grazie. We'll be right back. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra gentile ospite, alla quale lasciamo un'altra tranche di questi racconti. Ecco, dicevo che un tema musicale molto ben scelto, anche perché nel Settecento, prima dell'arrivo di Napoleone, la nostra terra era dominata dagli austriaci. Quindi, ecco, attraverso la marcia di Radeschi non possiamo che pensare al mondo di Cecco Peppe, della principessa Sissi, ecco, e quindi praticamente un qualche cosa che storicamente anche ha molto importanza, sì, per Bassano del Grappa. Ecco, sì. Invece torniamo poi ora agli anni del secolo scorso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ai quali vi voglio introdurre con dei versi rinvenuti in una rivista di poesia dialettale e folklore chiamata detta Musa Triveneta, che tra le brevi pagine edite nel maggio 1950 recita con la sigla MMF così: tutti se ga bisogno anguo de pase, bisogno de bontà, de poesia, de star sicuri nelle nostre case, de lavorar con poco de allegria, lavoro, pase e union, senza bulae, drezzar la barca e rispettarse tutti, giustizia e carità, non far sempiae fra dei poveri o siori o bei o brutti. Allora vorrei chiedervi se non sembra scritta per questo nostro momento di vita. Ecco, nella quale, ecco, pensate che appunto io ho davanti agli occhi questo piccolo opuscolo appunto intitolato Musa Triveneta, che era una rivista mensile di poesia dialettale e di folklore. E dice ancora, anno secondo, numero 5, maggio 1950. Però questi opuscoli che mi sono stati donati da un amico, perché ogni tanto qualcuno scopre qualcosa nelle soffitte di casa, e allora magari mi chiamano, mi telefonano, signora Eli, abbiamo trovato una cosa, forse le interessa, che bello, la mandiamo. Sì. Allora ogni tanto mi arriva qualche cosa di questo genere, allora io naturalmente mi diletto a riguardarle e trovo delle cose che francamente dico, ma il mondo è sempre lo stesso, gira gira, ecco, perché mi dica se potevamo trovare qualche cosa di più adatto a questo momento che questa piccola, questa piccola poesia in dialetto veneto. Bellissimo. Ecco, addirittura in questo stesso, come si chiama, piccolo opuscolo, si parla poi di un secondo raduno di poesia dialettale triveneta a Marostica, tenuto il 21 maggio 1950. Ecco, allora adesso da queste pagine ingiallite, ecco, pervenute, come vi dicevo, sì, a cura di un caro amico, ecco, c'è una poesia di un certo Terio Ferrari di Verona, perché in questi raduni naturalmente partecipavano tutti dal Triveneto, erano dei raduni abbastanza interessanti, io per esempio questo non lo sapevo, è una cosa che ho scoperto guardando questi piccoli opuscoli, ecco, è abbastanza interessanti perché venivano da tutto il Triveneto e non solo, c'erano addirittura, si aggiungevano dei poeti che venivano anche dall'Italia meridionale. Addirittura. Ecco, e allora questo poeta, questo certo Terio Ferrari di Verona, al secondo raduno di poesia tenuto appunto a Marostica il 21 maggio 1950, scrive e poi aveva scritto, pensiamo, e poi recita tra vivi applausi, come dice poi il resoconto qui, con altre persone naturalmente, e che alternandosi su un palco recitano le loro poesie. Ecco, questa io l'ho trovata particolarmente carina, è intitolata Na Canson. La leggo, sì. Scusate, io cerco di leggere in buon veneto quello che trovo scritto. Eccellente. Bello, sì. Questo naturalmente è un po' più veronese del Veneto che parliamo noi. Ah. È intitolato Na Canson. Voria ciapar sta testa, buttarla su par aria nel ciel, che la savaria cercando una canzon. Perché sto mondo sappia che il canto del poeta fa l'anima più quieta e rende il cor più buon. Voria acciaparmi l'anima, par strenzerla e schissarla, e con le man buttarla il stesso de un ballon. E nel cervello buttasse la mia canzone più bella, de sotto de una stella con santa intonazione, perché la superaria de fora da sto ciasso a un sogno dolce in brasso sognasse in abbandono. Così, così faria quando che vedo un mondo smarsido fino in fondo da stupide passioni. Vorria po' dirgli a tutti, al sesso in alto gli occhi, che aveva dai pastrocci che ve rovina il cor. Scolte quel che vedise i fiori profumati, le piante, i campi aradi, le lodole in amor. Guardè su in alto e il magico brillar de mille stele che par tutte fiammele par rischiararve il cor. L'è tutta qua la vita. Una stella, un sogno, un canto, una fregola d'incanto che cava via il dolor. Lassù, nel ciel più grande, de un ideal più puro, il cor sarà sicuro, diventerà più bon. Ecco, perché voria anima e testa in aria buttar, che le savaria cercando sta canzone. Molto bella, che bella. Molto bella, che belle immagini. Ma è vero, però, che allora sì, vedi che in cerca, questo sì. Tema sì. Torna sempre, dico proprio, l'uomo retto che è amareggiato dal malcostume, come oggi, per esempio, no? Sembrano scritte per i nostri momenti. È vero, è vero, è vero. Ecco, c'è questo uomo amareggiato dal malcostume che cerca un'ora di sogno, di pace, di fraternità, non lo di so sobrietà. Io come tradurre quello che ho letto anche un attimo fa. Sì. Però proprio mi sembra che questo sia un motivo molto importante, molto ricorrente, soprattutto in chi scrive. Che bello perché, guardando il cielo, guardando le stelle, ma guarda che bellissima la natura. È vero che è bella, che bella immagine. Decisamente certo, bella, sì. Io penso che questo signor Terrio Ferrari potrà anche essere ormai anche lui insieme a Gino Pistorello, dico io, a recitare altrove. Però insomma, riguardare questi piccoli opuscoli, guardi, vorrei che lei li potesse vedere con me. In tutto sono quattro quelli che mi sono stati dati, ma sono così bellini, così densi, perché poi c'è il ricordo dei poeti che per esempio avevano fatto parte evidentemente di queste congreghe di gente che scriveva e che poi sono morti, allora li ricordano e poi dicono dei libri che sono comparsi nelle librerie con temi così di poesia dialettale o cose così. Quindi un'informazione che, dico io, era un'arcadia dialettale. Eh sì, ma molto bella comunque. Ecco, un'arcadia dialettale, come anche oggi, per carità, ci sono anche gruppi, no? Penso anche a Treviso. Beh, che adesso scrivono tutti. Ecco, scrivono tutti, forse un po' anche troppo. Scritto che scrivono. Ecco, il fatto del dialetto anche, bisogna anche badare molto alla scrittura, secondo me, alla grammatica, un po' a tutto. Quindi c'è da lavorare molto, no? Per poter scrivere, è come scrivere in una lingua che non è la nostra. Certo. C'è il rischio proprio di andare fuori tema oppure di apparire artefatti, ecco, questo è il punto, sì. L'unica cosa, però, io ho notato anche facendo da presidente da più di 20 anni del concorso che viene fatto a Marostica ogni anno, proprio dedicato alle persone anziane, no? Ecco, ed è riguarda un po' tutto il nostro territorio, ecco, che di queste cose l'unica bella cosa, direi, l'unica di tutto questo scrivere, sono dei piccoli ricordi che altrimenti sarebbero andati completamente perduti. Ecco, queste immagini sono importanti, secondo me, di queste case contadine, di questa vita povera, di queste aie. Ecco, io credo che gli ultimi epigoni di queste cose siamo noi. Passata la nostra, anch'io lo penso tante volte. E la nostra generazione, i nostri ragazzi non sapranno più di queste cose, perché è chiaro, è cambiato talmente tanto il modo di vita che sono cose completamente perdute. È peccato, ecco, però. Infatti le cose sono state raccolte, guardi, un anno, ai 10 anni, allo scadere del 10° anno fu pubblicato un libro, ogni anno viene pubblicato un opuscolo su tutto quello che viene fatto, viene mandato per essere recensito, ecco, ma fu fatto un libro raccogliendo naturalmente le cose migliori, ecco, perché? Perché appunto che resti al ricordo, perché infatti in questi 20 anni molti si sono perduti per via, insomma è chiaro che mano a mano i cerchi si chiudono, noi moriremo e resterà quel poco che abbiamo detto fatto, sì, ecco, da chi vorrà leggere o ricercare, perché ecco, se io non avessi avuto davanti questo ingiallito piccolo mensile, questa piccola rivista mensile di poesia dialettale, queste cose per esempio così carine dette da questo signor Tevio Ferrari non le abbiamo, non le avremmo, non mai avremmo, saputo, non avremmo sentite neanche noi, non le avremmo mai sapute, certo, mai sentite, certo. Molto bella, ecco, comunque, ecco. Ci fermiamo, allora, se vuole possiamo continuare, appunto io ho considerato, dicevo proprio come mia considerazione, un'Arcadia dialettale, quella vissuta a Marostica in una domenica di maggio, no? Certamente da chi sentiva partire dal cuore questo afflato poetico, ed era un sentito che parlava a tutti e compreso da tutti, perché soprattutto i veneti naturalmente avranno ascoltato con molta passione. Penso proprio cose di sì. È molto, ecco, interessante. Adesso signora le facciamo ascoltare che cosa, Antonio? Un brano, diciamo, che richiama un altro rapporto di Bassano, non più con l'Austria ma con la Serenissima Repubblica. È un brano che è straordinario, e nella versione sognante del sax alto Fausto Popetti, anonimo. Bellissimo. Veneziano. Grazie, grazie. Eccoci di nuovo in studio con la nostra signora Elide. Ecco, allora ritorniamo un attimo ancora sull'Arcadia, sì, dialettale. Sì. Perché come dicevamo poco fa, scrivono in molti, scrivono tutti, ecco, non tutti proprio da apprezzare molto, ecco, io in genere quando mi mandano sempre, sa signora, libri da guardare, chiedendo giudizi, naturalmente a me dispiace molto, non mi azzarderei mai a dire non so, non è, ecco, uno dice ma continui pure a scrivere, vedrà che per lei sarà un grande piacere, perché in fondo scrivere è così un po' liberare la nostra anima da tante cose, le gioverà a lei moltissimo, cioè, cerco grandi circolocuzioni senza scoraggiare nessuno, senza magari, dare giudici tranchanti. Io a Treviso ne abbiamo talmente tanti poeti che lei non ha neanche un'idea. Ecco, immagino che allora alla radio possa succedere la stessa cosa, cioè che tutti possano mandare qualcosa che possa essere letto o recitato, insomma, ecco. Perché in effetti la poesia dialettale vive in voci più o meno significative, certamente con qualche bella punta come quella del caro Gino Pistorello, del quale abbiamo già letto qualche cosa di molto significativo. Io l'ho sentito recitare quel giorno della festa, eh? Sì. Hanno fatto sentire che simpatico che era. Sì, simpaticissimo, sì. Perché una volta cercherò quelle letture nelle quali con ironia cerco spuncia, diciamo, in Veneto un po' tutti i suoi concittadini, sì, no? Sì, ecco, sì. Perché aveva anche questa vena satirica molto interessante. Infatti, è vero. Ecco, molto, perché era uno scrittore completo, a mio avviso. Ma anche molto semplice, molto... Ecco, perché non è semplice fare dell'ironia scrivendo, non, affatto semplice. Ecco, invece Pistorello, come dico io, ecco, forse lui adesso in altra dimensione continuerà forse a pensare in versi. Ecco, c'è un altro bassanese molto interessante che è Nico Bertoncello, che è stato più volte premiato per delle sue liriche sia in lingua che in dialetto. Ecco, è un caro amico anche Nico Bertoncello, molto apprezzato dai bassanesi perché scrive con una vena serena, lieve, pur con significati profondi. Ecco, il suo Veneto, per esempio, nello scritto è chiaro, è quello che piace, anche se non elevato a quella, se mi permetto di dirlo, lingua veneta che alcuni auspicano. Ecco, io sono sempre del parere che da bravi italiani dobbiamo coltivare anzitutto il nostro splendido idioma, lieti poi delle voci che possono risuonare nel nostro cuore in cadenze antiche, quasi musica, a ricordo di chi ci ha preceduti in questi nostri luoghi di vita, quello che si può chiamare appunto la voce materna, la voce del Petel, la voce di quando eravamo bambini, dei nonni che raccontavano le folle venete. Ecco, però non può assurgere ad una lingua, perché quale sarà questo Veneto lingua? Come saranno chiamati i bambini? Mi chiedo sempre questo. Cei, putei, toseti, se noi pensiamo che da qui a Marostica, al di là del Silan, cambiano molte delle nostre parole, ecco, allora io dico, ma come si fa a pensare ad una lingua? L'italiano, che è nato ormai da tanto tempo, ecco, piano piano, attraverso un po' tutte le nostre regioni, si è purificato, ha cercato un senso di unione, per cui abbiamo un vocabolario ricchissimo. Pieno di tutto, di sinonimi, di tutto quello che può servirci, ecco, e anche nella sua difficoltà, perché diciamo che non è una lingua facile l'italiano. A me piace anche l'italiano arcaico comunque. Non è una lingua facile, è una lingua alla quale ci si deve appassionare, certo. Perché ecco, se pensiamo ai nostri grandi poeti, allora a me dispiace quando sento i veneti asserire, perché ci si trova in qualche discussione, vi sarete trovati anche voi, sì, io ma penso, senz'altro. No? Ecco, di questo tipo, ma una lingua perché possa essere definita tale, ma quanto tempo deve passare? Quanti panni da sciacquare in Arno? Ecco, ma non possiamo all'improvviso, perché ci fa piacere e vogliamo pensare ad uno Stato veneto, a improvvisare una lingua veneta. Non si può. No, insomma. È un dialetto veneto che... Cosa diceva, signore? Che è un dialetto veneto che si divide in dialetti... È un dialetto, perché guardi che il mio primo dialetto veneto è stato proprio quello del trevigiano. Il cosa fone in donostone, ponton o dogon, me lo ricordo ancora. Però è della sinistra Piave questo. Esatto. È la sinistra Piave, sì. Ma era così. Sì, sì. Così parlavano i bambini, sì. Anche a scuola. Dogon, Io mi ricordo proprio, tra l'altro io venivo da Roma e quindi per me era una specie di ostrogoto. Sì. Ecco. Poi invece il piacere proprio di imparare la musicalità di questo dialetto, perché, e poi il fatto stesso di avere un marito veneto mi imponeva quasi di conoscere il suo linguaggio da bambino. Certo. Ecco. Quindi, per esempio invece mi sono accorta che forse perché io ho sempre parlato abbastanza in italiano in casa, fuori mi piace anche parlare in veneto, ecco, che i miei figli a un certo punto mi hanno detto, ma mamma, quando hanno incominciato ad andare a scuola, che non parlavano il veneto, come tutti gli altri bambini, ecco, e questo può accadere, però, ecco, perché? Perché appunto il dialetto è la lingua della mamma, la lingua del cuore, dico io, no? Bisogna anche amarlo, sentirlo. Io se avessi studiato l'inglese, quanto ho riguardato il veneto, i poeti veneti, penso che parlerei la lingua di Shakespeare alla perfezione. Certo che è difficile però leggere il dialetto, eh? Sì, è difficile leggerlo, difficile, però io mi sono abituata. Pensate che mi veniva tanto da ridere, mi viene ancora da ridere quando appunto c'è la premiazione amarostica, che dicono, ah, le poesie in dialetto le legge la signora Elide. Ma l'unica che qui non è veneta, sì, è bene che le legga lei. A me, le prime volte mi veniva proprio da ridere, vi dico la verità, perché tutti i componenti della giuria erano veneti veraci, anche o scrittori o laureati o persone insomma ad un certo livello, vero? C'era anche il buon come si chiamava, Tony, che non mi viene il cognome, che era anche uno scrittore di vaglia, così, e diceva sempre, no, Elide, è bene che le legga tu le poesie di Elide. Dico, forse perché trovate, che non so, il tono della voce, no, di solito dai cadenze giuste, ecco, allora va bene, facciamo così, insomma, non se ne parla più. Io ho imparato a leggere il trevigiano, invece, perché io sarei mantovana, per cui ho imparato a leggere il trevigiano. Certo, il però trevigiano. è difficile leggere il dialetto. Ma certo, molto, anche perché in alcuni l'el mouillé, per esempio, è molto accentuata, in altri dialetti no, in altri luoghi no. Ecco, alcuni proprio la L è come se non si sentisse nella parola, si dice sieo per dire cielo, ecco, in altri invece no, e quindi un po' bisogna orientarsi in mezzo a tutte queste questi modi di scrittura. Sì, perché ci sono... Ecco, quello che stavo dicendo era di Nico Bertoncello, per esempio, ecco, è bravissimo secondo me a suscitare immagini, così come Pistorello, così, ma ha anche una bella scrittura, un bel modo di scrittura. Adesso vi leggerò una sua poesia, tratta da una raccolta che è intitolata Co vien sera, cioè quando viene la sera, ed ho scelto una piccola poesia che è intitolata Maschere, anche perché siamo in carnevale, i giorni del carnevale, sì. Ecco, che siamo... questo carnevale quest'anno sta scivolando via con tutta questa pioggia ripetuta, sì. Per cui tutto mi pare che si vesta di un grigiore, al di là è invece così del senso dell'allegria che in genere portano i giorni del carnevale, ecco, ma per fortuna non arriva a arrivare il grigiore nei sogni più nascosti. Ecco, in questa piccola poesia c'è un po' questo, ecco, se pensa che ci sia il tempo per poterla leggere, prego. È un po' breve, ecco, intitolata Maschere. Demo messo su maschere de carton stampae de sorrisi, de sberlefi, demo fatto festa, ed esso che carnavale dorme sui ricordi un sonno descuriandoi, non vogliamo più cavarle, cerchemo descondare e lagrime de una vita stramba che porta amarezze e delusione. Vuoimo tenere al manco in faccia e a gente quel sorriso che fa luce come neve sulla montagna alla prima pennea de soe. Vuoimo tenere al manco quel sberleffo che ne fa sognare pa' una volta di avere un coraio da leon, di avere ligà a luna sul nostro posto. Bella, bella molto, molto bella, sì. Sì. Beh, ma il bassanese non è tanto diverso dal nostro. No, non tanto diverso dal... appunto, come diceva lei, la sinistra piave, la destra piave, sì, è un altro tempo, no? Sì, sì. Ecco, certamente c'è però proprio quasi una tonalità diversa. Bene, signora, ci fermiamo un momento. Ci fermiamo un attimo solo. Antonio, cosa facciamo se ascoltare? Abbiamo di nuovo il sax alto di Fausto Papetti con un'incursione nella musica classica. Bellissimo. Adagio di Albinoni. Grazie. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite per un'altra tranche di queste meravigliose notizie. Dunque, le nostre meravigliose notizie, così oggi appunto dall'Arcadia le abbiamo portate, bontà vostra, per via delle meravigliose notizie, bontà vostra, ecco, le abbiamo portate verso appunto i nostri poeti, ecco, ai quali io mi sento proprio di estendere sempre un saluto molto, molto particolare, di dire, come dicevo poco fa, continuate a scrivere, lo scrivere è una cosa prodigiosa, fa bene al nostro cuore, tutto considerato, ecco, quindi basta che non abbiamo poi, non ci illudiamo di avere grandi velleità, insomma abbiamo grandi velleità di essere dei veri grandi poeti, l'importante è che le cose piacciono a noi, che ci sentiamo soddisfatti di averle fatte. Ma lei ha scritto anche, però... Sì, io scrivo sempre, ho scritto, sì, mi piace molto, ho avuto un periodo anche che ho scritto molte poesie, molte cose, però il mio grande piacere è stato lo scrivere per bambini, lo scrivere per bambini, di portare alla loro conoscenza la storia della nostra città, di riempire di fantasia un po' tutti i nostri monumenti, ecco, e questo... Mi ha dato piacere perché è stato riportato nelle scuole, se ne è parlato, è stato pubblicato sui diari scolastici, cioè ci sono stati dei riscontri, varie cose, diciamo, che sì. Hanno, non per il mio nome, ma per il gusto proprio di parlare della città in un certo modo, ecco, è stato molto valorizzato. Insomma, la prossima volta di cosa ci parlerà, signora? Mi ha fatto molto felice. Dunque, se vogliamo continuare a parlare ancora della nostra Bassano, certo. Arriviamo allora allora la presenza di Napoleone a Bassano, la prossima volta sì. Potremo parlare di questo, e poi dato che è un tema molto importante, è quello della celebrazione del centenario della guerra 15-18, questo è una cosa che mi sta a cuore in modo particolare, perché mio padre, che era nato nel 1898, era venuto con le ultime due classi chiamate, il 98 e il 99, proprio a Bassano anche a fare la guerra. Era stato in grappa e poi in un cambio aveva dormito a Bassano nella chiesa di San Giovanni, quella di Piazza Libertà, che naturalmente le chiese si dice era sconsacrata, no, una volta consacrata resta consacrata, certo. Però non vi celebravano più diciamo le messe, i sacramenti e cose del genere, e con paglia in terra ospitava i soldati che scendevano dalla prima linea, e mio padre, che aveva 18-19 anni, aveva dormito in questa città. Certamente che poi la vita avesse portato me in questi luoghi, nessuno avrebbe potuto dirlo. Ecco, vede, tante volte come, sì. Ecco, succedono le cose. Sì. Ecco, e quindi questo, di questa guerra 15-18 io ho sentito molto parlare da mio padre, e quando ho scritto il appunto quadro dell'Arcadia dedicato alla guerra 15-18, che io ho immaginato in un piccolo ospedale di guerra, così come c'era qui a Bassano, dove venne anche la regina Elena in passaggio con il marito, che andava a visitare le prime linee e lei si fermava normalmente per visitare gli ospedali militari. Ecco, ho riportato una lettera di mio padre, addirittura, che mio padre aveva scritto alla sua famiglia. Ah. Ecco, mio papà non era romano come me, mia madre veniva da famiglia contadina ed era della Sabina. Ah, ho capito. Quindi, ecco, papà era venuto qui a fare la guerra. Pensare delle volte. Vado, ecco. Guarda un po', e lei ecco. È venuto ad abitare. Ma pensi i fatti della vita. E quando papà veniva a trovarmi, mio padre era funzionario delle Ferrovie dello Stato, quindi viaggiava molto con piacere anche. Allora io ero giovane sposa, lui veniva a trovarmi, veniva a vedere poi i miei bambini, e andava sempre in grappa. Andava in grappa fino all'ossario, si faceva portare o in taxi o in macchina da mio marito, così. E per lui era come andare a fare un pellegrinaggio. Ma grappa una cosa è stato... che è proprio a me una cosa che mi colpiva molto. Immagino. Ecco, lui andava su e poi tornava con una serenità, con una cosa, e diceva: però come ero giovane, quanto abbiamo patito, perché sì, appunto ricordava tutto, poverina, no? Era stato veramente, sono stati quelli che hanno poi preparato diciamo la controffensiva del Piave, esatto. E poi sì, la guerra. Ecco, proprio gli ultimi mesi di guerra, il 98 e il 99 l'hanno fatta, le ultime due classi chiamate alle armi. Difatti i ragazzi del 99. Certo, qui a Bassano abbiamo anche il monumento dei ragazzi del 99, una grande celebrazione venne fatta nel cinquantenario della guerra, e appunto ci fu questo, in Prato Santa Caterina hanno elevato appunto questo monumento in uno spazio molto bello che è stato regalato alla città proprio dai ragazzi del 99. Sì, proprio queste cose che evidentemente da tutta Italia vennero in quell'occasione, ci fu una celebrazione bellissima, ecco, e si erano dati il loro monumento, e pensi che nel monumento c'è una piccola cella sotto dove si celebra la messa ogni anno, e mano a mano che sono morti i cavalieri di Vittorio Veneto, appunto quelli del 98 e del 99, sì. Ci sono tutti i nomi in questa piccola cripta. Come quando muoiono i parenti hanno mandato sempre a dire i nomi, di modo che siano stati poi sotto, restino poi sotto il monumento dei ragazzi al 90. Sono belli ricordi. Sono quelle cose che insomma hanno un grande significato, anche perché vede dall'alto dei miei tanti anni io posso dire di averlo vissuto di persona, insomma, questa cosa, attraverso appunto i ricordi di papà. Ecco, allora la prossima volta penso che parleremo allora del passaggio di Napoleone. Benissimo. Perché è stata anche quella una cosa molto importante, perché gli austriaci che dominavano la città sono dovuti scappare via, e si è arrivato Napoleone, ecco, con tutte le novità che comportavano che comportava dalla rivoluzione in francese in poi, ecco, e quindi tutto un discorso abbastanza importante. Benissimo, abbastanza, signora, benissimo. Abbastanza pregnante. Grazie, ecco, di tutto, grazie, prego, tante, ecco, tante, allora, grazie. Io vi dico un mio arrivederci presto, sì. Risentirci presto. Alla prossima, ecco. Alla prossima. Grazie. Alla grazie, prossima. Grazie buona tante, grazie. Grazie. Grazie. Allora, Antonio. Allora andiamo, ringraziamo la signora. Ringraziamo naturalmente la signora per sempre l'eloquio forbito, così, la proprietà di linguaggio, che è sempre un piacevolissimo ascolto. E andiamo con l'ultima canzone, che è da una solista, passiamo a una grande orchestra, che è quella, sì, di Arturo Mantovani, con la canzone Charmante. Eccoci qua di nuovo in studio con l'ultima tranche di questa serata e ritorniamo, diciamo, dopo aver ascoltato la signora con un argomento un po' più prosaico, forse, l'argomento della cucina, la cucina povera naturalmente come da tradizione, con Bruno Lorenzon da Rio Arestera, il solito naturalmente cantore della civiltà contadina. B come bruscandui. Non ricordo se in altra stagione l'abbiamo proposto, ma ogni tanto mi tocca, perché è una cosa veramente straordinaria. Ma adesso non è il periodo dei bruschi. Certo, certo. Ecco, allora. Ciò che più conta nella vita, dopo l'amore, è il cibo, anche perché l'arte culinaria del Veneto non è seconda a nessuno e i piatti tipici della cucina trevigiana, dalla soppa coada al risotto alla sbiraglia, dall'oca rosta ai risi e bisi, sono molto apprezzati e godono di una fama che supera i confini regionali. Attualmente il radicchio trevisano o altro precoce e tardivo, e il castellano e quant'altro, anche il radicchio Verdon da Cortel, opportunamente sponsorizzato e commercializzato con indicazione d'origine, sembra farla da padrone e trova facile collocazione ovunque. Ma un tempo doveva contendere questa fama ai frati, le erbe, non i religiosi, ai bruscandoi, che sono i germogli di luppolo, ai sciopetini e ai funghi, ciodeti e pioparoi. Tornano in auge anche i fiori de suca e perfino i fiori de gasia, che costituivano peraltro, insieme con la pinsa all'Epifania e fritoe a Carnevale e a Fugassa a Pasqua, il dessert delle nostre famiglie. A dire il vero, i pasti consueti, al di fuori delle solennità religiose e di particolari circostanze, erano piuttosto frugali e non prevedevano una grande varietà di piatti. Le donne si servivano di quanto era reperibile sul posto, chilometro zero già una volta, e mai come allora trovava riscontro il detto «ogni frutto a sostaion». Ma cosa mangiavano i nostri vecchi? La prima preoccupazione in verità non era per la linea o per il tasso di colesterolo. L'aspirazione principale era di mangiare i suoi bisogni, che non è un'espressione triviale ma un modo per significare che c'era cibo a sufficienza. Si diceva infatti che a chi non mancava il necessario elga tutto il suo bisogno. Di fronte a questo imperativo la qualità passava in secondo piano. Del resto, per mangiare una buona puenta che vuol una gran fame. Sentenza che, tradotta in altro modo, suona pure «cossega fame, tutto se bon». Con la vita dura che si faceva, specialmente in campagna, e il gran numero di scodelle da riempire, la fame era una condizione frequente e raramente uno poteva alzarsi da tavola passuo, cioè sazio. Tanto che anche fra i cristiani c'era chi pareva nato dopo Ascensa, l'ascensione, come si diceva dei gatti magri e spelecchiati. Quando gli capitava, egli mangiava a quattro ganasse e magari de stramuson e faceva nettissia di tutto, con o senza companasego, ossia accompagnando o meno la pietanza e il toccio con il pane o il più delle volte con la polenta, la quale, come noto, era sempre solo di farina bianca, contrariamente alle abitudini del resto d'Italia, dove usavano e usano tuttora la farina gialla, che da noi, a causa della qualità locale poco adatta all'uso alimentare, veniva utilizzata nella preparazione del paston pare bestie. La polenta è stata per lungo tempo un mito sulla mensa dei nostri avi, ma essa non ispirava nessuna poesia, anche perché la pellagra non la faceva apprezzare come forse meritava. Sostituirla col pane di frumento non era facile. Il pane era considerato un alimento di lusso e, al pari del brodo de gaina, veniva riservato ai convalescenti e alle puerpere. Anche più del pane era considerato un lusso la carne. L'astinenza del venerdì era un precetto facile da rispettare. Essa veniva sostituita parzialmente con l'apporto proteico dal largo uso che si faceva di fagioli, freschi o secchi, da consumarsi consi oppure in minestra. Questa veniva servita spesso con il riso oppure con la pasta, rigorosamente fatta in casa e spesso tagliante in fettuccine e tiracche, insaporendoli con striscioline di scorso, cotenna, e con un penin de porcel o con le verze, la bragada. A pasta e fasioi veniva ottima anche la sera, quando la si consumava insieme con il radicchio, densa al punto che è il cuciaro che sta impiantato. La minestra era il simbolo della dignità dell'uomo che lavorava, appunto per ciaparsi un piatto de menestra da dividere magari cristianamente con chi era più disgraziato. A casa mia un piatto de menestra te lo troverà sempre. Un altro ingrediente della mensa era, insieme ai fagioli, il raiccio de campo. Quasi spontaneo nelle colture intercalari della vite o del frutteto, che veniva consumato tanto crudo che cotto in teccia, reso appetibile con sisso ed elardo e un spigolo de aglio, e che passava per la famosa bistecca de orto. Fortunatamente, ai lunghi periodi di scarsità, se non di carestia, durante i quali bisognava ingegnarsi in qualche modo per mangiare a sufficienza, perché non se vive de aria e del resto sacco vodo non sta in piè, seguivano, come abbiamo accennato, delle occasioni speciali in cui tutti si abbuffavano, convinti che quel che non soffega ingrassa, vuoi per uno sposalizio, vuoi per la festa del ringraziamento, quelle due o tre volte l'anno che capitava di trovare in tavola roba da ciucciarsi i dei e da essercene d'avanzo, gli chiedava drento con impegno e non esitavano a dividerla con i più prossimi e abitualmente con i compari. Magna compare, che ne sei per strassaria! E anche con involontaria ironia, magnati, se non mi tocca darga il porcel. E questo era quanto i nostri vecchi, diciamo, sapevano fare, eccetera. La cucina povera, che adesso è diventata sempre cucina, cose belle comunque. Esatto, cucina d'élite, sì, cucina certo, naturalmente certo. Che i grandi osti hanno riscoperto. Tu vai a mangiare un piatto di rane, vedi quando te lo fa pagare. Esattamente. Ecco, noi bene, siamo arrivati come tutte le altre volte, così, con, come posso dire, con una certa così, nostalgia e con un certo dispiacere che finisca. Perché diciamo, vogliamo la bene serata. I nostri ascoltatori. Esattamente, no? E speriamo certo. Che loro continuino naturalmente a volere bene anche a noi. A darci il loro consenso, e non ci resta altro che ringraziare. E alla prossima volta. Bene, io saluto tutti affettuosamente e come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.